America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Per una volta parliamo di musica classica. Avete sentito un brano dell'intermezzo della Cavalleria Rusticana di Mascagni. Perché vi propongo un pezzo di musica classica? Beh, perché ieri sera c'è stato un evento importante a Carnegie Hall, che è il tempio della musica classica, direi a livello mondiale, beh, uno dei tempi. Carnegie Hall sicuramente ha un ruolo straordinario nel contesto della musica classica globale. Ebbene, ieri sera c'è stato il debutto a New York del nuovo direttore musicale della Opera Orchestra di New York con il maestro Alberto Veronesi, un italiano, è la prima volta che succede, è diventato il direttore musicale della Opera Orchestra di New York. Avete sentito un'aria tratta dalla Cavalleria Rusticana, Maria Guleghina, interprete, sempre, vi dicevo, ieri sera. Beh, vorrei aprire una piccola parentesi. Che cos'è Carnegie Hall? Ve l'ho detto prima, un po' il tempio della musica classica, però ha anche una particolarità, e cioè è legata in qualche modo al mondo degli affari, al mondo della finanza. Intanto, perché si chiama Carnegie Hall? Beh, perché è stata fondata da Andrew Carnegie. Andrew Carnegie è uno dei padri della rivoluzione industriale americana, uno dei grandi protagonisti della costruzione delle acciaierie qui in America, acciaierie che poi facevano i binari per le ferrovie, dunque che ha contribuito alla scoperta del West e quindi alla grande espansione degli Stati Uniti d'America. Ebbene, a un certo punto, verso la fine dell'Ottocento, Andrew Carnegie decide di fare una grande donazione alla città di New York e di costruire questa bellissima Opera House, o comunque Orchestra House, perché poi a Carnegie Hall si suona di tutto, non c'è soltanto l'orchestra stabile, ma ci sono anche ospiti che vengono un po' da tutto il mondo. Ebbene, oggi Carnegie Hall è ancora bellissima e straordinaria. Perché? Beh, perché ci sono stati altri americani che hanno avuto successo come Carnegie nel mondo degli affari, che hanno fatto importanti donazioni per rimetterla a posto, per cui per esempio Perlman, un grande finanziere, oppure Sandy Weill di Citigroup, di nuovo un grande finanziere, hanno fatto delle donazioni, ci sono delle sale intestate a loro. Dunque c'è questa continuità filantropica che in qualche modo ha seguito l'evoluzione degli Stati Uniti, partendo dall'era dell'acciaio per arrivare poi fino all'era della finanza, della grande finanza globale. Ma noi abbiamo la fortuna, il piacere di avere ai microfoni di America 24 Alberto Veronesi, che ha diretto ieri sera l'orchestra. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Allora, intanto l'emozione di ieri sera, il debutto, come ti sei sentito a Carnegie Hall? È una esperienza straordinaria e un pubblico veramente molto molto caloroso, generoso, con queste standing ovation, tanti minuti di applausi, veramente una grande gioia, perché il coronamento di un sogno, di tanto lavoro per arrivare a questo debutto. Ecco, Carnegie Hall, devo dire, negli anni, nella storia, c'è stato anche Arturo Toscanini. Come ti sei sentito? Beh, Toscanini è stato colui che ha, diciamo, portato la musica classica negli Stati Uniti, il grande fondatore di tutte le tradizioni, sia operistica che sinfonica negli Stati Uniti. Nel camerino di tutti i maestri della Carnegie Hall, tutti quelli che si succedono, e quindi nel mio ovviamente, c'è un solo busto, che è il busto di Arturo Toscanini, perché è veramente il direttore di riferimento. Quindi il fatto che dopo oltre 70 anni, diciamo, io abbia preso, diciamo, idealmente una direzione musicale qui a New York, quindi con una responsabilità di scegliere i brani, di scegliere gli interpreti, creare l'orchestra, di migliorarla, eccetera. Ecco, questa responsabilità, diciamo, nessun italiano da allora l'ha mai più avuta. Veniamo al programma, perché tu hai scelto per il debutto la Cavalleria Rusticana di Mascagni e la Navarrese di Jules Massenet. Ricordiamolo, Carnegie Hall non è un'opera house, ma Carnegie Hall è una sala di concerti, e dunque sono due opere che sono state allestite senza costumi, senza le scenografie, con i cantanti in smoking che interpretano la musica, giusto Alberto? Sì. È così, sì. Ecco, sì. Abbiamo sentito prima un brano di Maria Guleghina. Com'è Maria Guleghina? È difficile, facile? Beh, sappiamo che è un soprano fantastico. Maria Guleghina è una grande amica, è un'interprete straordinaria ed è una grande artista, quindi per me lavorare con lei è una gioia, perché diciamo è uno scambio fruttuoso di idee, di indicazioni tra il direttore e l'interprete, è qualcosa di estremamente suggestivo, dove delle volte anche il maestro può imparare. Ecco, sentiamo un altro brano, Roberto Alagna e il tenore, in entrambe, dunque, il programma, vi dicevo, è La Cavalleria Rusticana di Mascagni, La Navarrese di Jules Massenet, due opere, Roberto Alagna è tenore in entrambe le opere, Maria Guleghina è soprano nella Cavalleria Rusticana, mentre per La Navarrese Elina Garancia è il mezzo soprano e Idara Brazkov è il basso. Bellissima interpretazione, ecco, Roberto Alagna è un tenore italiano che si è affermato in modo straordinario, com'è lavorare con lui? Roberto Alagna è una grande voce, una delle grandi voci di oggi, diciamo uno dei tenori che poi possiamo contare sulle dita di una mano, forse neanche tutte le dita. E questa interpretazione è naturalmente della Mamma quel vino è generoso, l'unica vera aria che c'è in Cavalleria Rusticana per il tenore, che è il finale naturalmente con l'epilogo tragico, che lui interpreta ancora adesso come se fossero i primissimi anni della sua carriera, con questa passione, con questa forza, con questa veemenza che è tipica del suo stile, e questa perfetta anche dizione, ecco, questa tra l'altro adesso non abbiamo sentito, ma c'è la siciliana all'inizio della Cavalleria, la siciliana che lui canta appunto dietro le quinte, che è perfetta, nessuno la potrebbe fare meglio, perché lui è nato ad Ortigia in Sicilia, questo proprio stile, questo dialetto siciliano che usa Mascagni veramente non può essere meglio interpretato. Ecco Alberto, perché hai scelto questo programma? Abbiamo appunto due opere insieme, due opere brevi, ma perché Mascagni e Massenet? Ma perché io sono considerato un esperto di verismo, di fatto è la mia passione il verismo musicale, io sono nato molto con Giacomo Puccini e ho sviluppato una linea, un progetto discografico molto importante che è ancora in corso con la Deutsche Grammophon, tutto basato sul verismo italiano, quindi il verismo è il mio vero cavallo di battaglia, e quindi due manifesti del verismo che sono il verismo italiano con Cavalleria Rusticana e La Navarrese di Massenet, che negli anni ha avuto meno successo di Cavalleria, ma che è un'opera straordinaria di una bellezza intensa, quasi scioccante, con appunto anche questi elementi di verismo naturalistico francese, cioè perché ci sono poi gli spari e veri della sparatoria, cioè in cui vengono proprio rappresentati questi spari, oppure le campane della morte del generale Zuccaraga, ecco, sono cose di grande verismo, di grande effetto. Bene, grazie ad Alberto Veronesi e complimenti per il debutto. Grazie, grazie a te. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di opera, abbiamo parlato di musica classica, vorrei proporvi una vecchia canzone così in onore della musica classica, un'interpretazione di Pavarotti e Liza Minnelli di New York. New York. Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes and step around the heart of it, New York, New York. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.